Rock Wave Live presenta Io mi racconto con Gilles Facchinelli e i suoi ospiti. Tutti i giovedì dalle ore 20.30 alle 21.45 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Buonasera a tutti, per me è una serata speciale. Sono Gilles Facchinelli dai microfoni di Radio Cooperativa. È una serata speciale per me perché è la mia prima trasmissione qui in questa emittente. E sono qui a proporvi musica con i nostri live in diretta. È un piacere ricominciare qui in Radio Cooperativa. Mi sentirete ogni giovedì, come avete sentito lo spot, dalle ore 20.30. Allora, questa sera, dopo questi doverosi saluti, vi ricordo anche che chi volesse sintonizzarsi, magari ci sta ascoltando via web, però nella zona è tutto il Triveneto, noi siamo sui 92.700 MHz. Allora, ragazzi, io vi presento il nostro primo ospite, anzi, introduco il nostro primo ospite. È un cantautore, è milanese, classe 1978, è appassionato di blues, rock progressive e oggi musica elettronica. Allora, do il benvenuto al mio primo ospite, benvenuto a Radio Cooperativa e a Io mi racconto, a Vlog. Buonasera a tutti, grazie dell'invito, grazie Gilles, ciao. Ecco, è un vero piacere, mi ricorderò di te senz'altro, Vlog, perché sei il mio primo ospite, quindi entri nella mia storia. Un onore per me. Il viaggio è andato tutto bene? Benissimo, grazie, perfetto. Ecco, non ha neanche avuto bisogno di indicazioni, è arrivato qua diretto. Non è vero questo. Passiamola così. Allora, Vlog questa sera è qui per presentarci, poi ci racconterà lui appunto un po' nel dettaglio questa sua trilogia, ma prima voglio chiederti una cosa, cercando un po' di conoscerti un po' di più. Diciamo che sei uscito in quest'ultimo periodo allo scoperto come cantautore, perché tu hai scritto e composto tanto per altri. Sì, mi piace questa frase, sei uscito allo scoperto, in effetti, perché rende bene l'idea. Per tanti anni ho scritto per altri, per me ovviamente, essenzialmente per me è sempre stato un istinto, qualcosa di innato, e però è un po' gli amici, i sostenitori, altri artisti, diciamo affetti, mi hanno spinto un po' a scendere in campo in prima persona. Così ho fatto, sto facendo, devo dire che al momento mi sto divertendo molto e sono molto contento del progetto. Ecco, un progetto che adesso entriamo un po' nel vivo, possiamo un po' parlarne. Di cosa si tratta? Cos'è questo progetto? Allora, come ti accennavo anche nel fuori onda, questo progetto io vorrei mettere, diciamo, al centro le canzoni, le mie ispirazioni, le mie idee, i miei testi, al centro insieme alla mia voce, e usare fondamentalmente l'elettronica, che è uno strumento che io ho studiato in questi ultimi anni, quindi sono avvicinato, appassionato, nelle sue varie sfaccettature, quindi dall'underground alla trance, alla minimal, che di volta in volta si andrà a, come dire, a plasmare su quelle che sono i lavori, saranno ogni volta un abito diverso sulle canzoni stesse. Quindi diciamo anche che questa trilogia parte con un brano che ascolteremo tra poco, anzi non parte proprio da osmosi. No, esatto, la trilogia è nata quest'estate con questo primo pezzo che appunto ho realizzato con Lorenzo Avanzi, che è l'arrangiatore, l'artista con cui collaboro in studio, era Padroni della Sabbia, quindi l'idea volevo con il testo, insomma, raccontare un'avventura estiva che però non avveniva al mare ma nelle strade, sì, deserte della città, e poi adesso è uscita Osmosi, che è un po' il dopo bacio, quindi diciamo il girovagare notturno, e i suoni appunto vorrebbero anche portare a quello. C'è tanto lavoro sui suoni, su questa dimensione onirica che dovrebbe un pochettino trasportare l'ascoltatore in questo dopo bacio. Certo, e dopo bacio, vi consiglio anche di per capire anche questo dopo bacio, c'è anche un video, no? Sì, no, il video, sono molto orgoglioso del video perché mi piace molto l'idea di coinvolgere le persone. Questo video sono tanti baci di vario genere, diciamo, in centro a Milano, le persone si sono prestate, poi è stata anche un po' la fortuna che ci sono dentro tre youtuber famosi, ma davvero beccati così, sì. Quindi potrebbe essere un'idea che porteremo avanti anche sui prossimi video, non è detto, ma ci stiamo lavorando. Ecco, quindi è iniziato tutto con Padroni della Sabbia, sì. E che poi c'è questa D maiuscola, Padroni. Padroni, perché poi nella canzone si fa riferimento al drone. Mi piaceva molto questa cosa, questa frase, mi sento un drone d'agosto, perché nel testo sentirsi drone ad agosto, il drone d'agosto, tutti noi ad agosto vediamo questi droni. Fin dei conti, da un lato sono un po' fuori dalla realtà, osservatori distaccati dagli altri, no? Che osservano tutto un po' dall'alto, non dico necessariamente altezzosi, però sono, diciamo, fuori campo. Infatti, certo. Il brano inizia con un fuori campo. Ma anche perché in fin dei conti poi il drone, tutto sommato, però è sempre anche guidato, non è del tutto autonomo, no? Quindi ha questi due aspetti, per cui ho voluto sottolineare il fatto che sì, sei padrone ma sei anche drone. Cioè. Certo. E tutto è uscito nel breve tempo, perché è uscito a giugno Padroni della Sabbia, sì. E Osmosi è uscito a settembre. Sì, sì, la verità è che stiamo lavorando veramente velocemente. Abbiamo tantissimi brani in questo momento in fase di, diciamo, di definizione attraverso i mixaggi, eccetera, quindi noi sicuramente entro fine anno usciremo con la chiusura della trilogia, ma poi dopo la data è ancora da fissare, sicuramente con un album che avrà dentro più brani. Ecco, quindi ci sarà un seguito a questa trilogia. Assolutamente sì. Allora, io direi di far ascoltare anche questa canzone, che ha dei suoni straordinari. Io parlavo prima che oggi l'ascoltavo su un impianto un po' spinto, cioè dove i suoni riesci un po' a sentirli, ad apprezzarli, e cambia totalmente il tipo di ascolto. Sì, questa è un'osservazione che tu mi hai fatto anche prima, è giustissima, e tra l'altro, se vogliamo, è un aspetto molto delicato, perché usando tanta elettronica e rivolgendosi però a un mercato, diciamo, comunque a un'utenza, ecco, più che un mercato di persone che ascoltano musica leggera, pop, abituate magari a suoni più immediati, in effetti quello bisognerà lavorarci tanto, soprattutto sui mixaggi, per dare qualcosa che sia davvero trasversale a tutti gli strumenti d'ascolto, perché in effetti per ascoltarla al meglio, soprattutto Osmosi, e mi vengono in mente un altro paio di brani che ci saranno nell'album, le cuffie o un certo tipo di impianto, o la macchina, per dire, la macchina, certo. È un luogo è diverso che sullo smartphone, certo, quello di sicuro, certo. Allora ascoltiamoci Osmosi di Vlog. Non è mai come niente se le mani sudate. Sapeva tutto di te. facendo fine. Per osmosi irreversibile. Allora, Vlog, come mai questa scelta di queste sonorità elettroniche? Ma allora, per me è molto importante questo aspetto. Io ho la convinzione in questo momento, anche alla luce delle esperienze che ho fatto, che l'elettronica possa essere la risposta giusta nell'arrangiamento ideale che ho in testa. Mi discosto un po' da quelle che sono un po' i trend, però hit pop o indie, dove comunque io noto che bene o male c'è una sonorità abbastanza che viene portata avanti in modo abbastanza continuativo. Nel mio caso invece, come ti dicevo prima, gli arrangiamenti cambieranno tantissimo da un brano all'altro, ogni volta si farà campionatura di suoni, quindi Osmosi ad esempio era un po' un brano, se vogliamo, minimal, magari Padrone della Sabbia era quasi, se vogliamo, anni 80, un po' era una delle primissime techno. Poi ci saranno altri brani dove avremo un'elettronica che si adeguerà a quelle che sono le necessità, quindi magari nel simulare effettivamente una gran cassa pura o un giro di basso puro. Però questo mi sta dando molta libertà nel creare, e anche rapidità, perché ci siamo resi conto che siamo davvero molto molto rapidi nell'eseguire, nel realizzare quella che è l'idea, e l'elettronica è uno strumento in questo molto interessante davvero. E qui è una persona che è diventata importante per te, che si chiama Lorenzo Avanzi. Assolutamente Lorenzo, che ringrazio, saluto, che ci starà sentendo. Ciao Lori. Come ti sei avvicinato tu a Lorenzo? Come gestite un po' la cosa? Allora, è stata davvero una casualità, nel senso che tramite amici mi era stato consigliato Lorenzo, proprio perché comunque aveva lui già di suo una tendenza all'arrangiamento elettronico. Ci siamo incontrati, io ho tirato fuori la chitarra, gli ho cantato 3-4 dei pezzi che avevo idea di fare, ho capito dai suoi occhi che c'era il feeling, insomma. Dopodiché ci siamo messi a tavolino e abbiamo anche tra virgolette coniato un metodo di lavoro, devo dire, abbastanza inusuale. Probabilmente facciamo tante cose un po' al contrario rispetto agli altri, però devo dire che ci stiamo trovando bene, il lavoro sta andando avanti bene, quindi sono veramente molto molto molto contento, non vedo l'ora di far sentire gli altri brani. Ecco, io volevo anche salutare una persona. No, non è dietro a te. Pronto? Ciao ragazzi. Ciao. Mi riconosci? Grande. Allora, benvenuto a Lorenzo Avanzi. E caramba, che sorpresa questa. Sì. Ciao Lori. Eccoci. Tutto bene? Bene, tu? Bene, sì, tutto a posto, grazie. Ecco, ti abbiamo fatto questa sorpresa. Sono molto contento, stavo parlando di noi, del nostro... Stavo ascoltando. Ecco, intanto ringrazio Lorenzo di aver accettato la mia proposta, perché... Visto che Vlog me ne aveva sempre parlato, del vostro rapporto, me ne ha sempre parlato come quasi un fratello, te lo dico sinceramente. Allora ho detto vabbè. Io non sapevo niente, Lorenzo, davvero, quindi è stata bellissima questa sorpresa, bellissima. E allora appunto volevo un po' farvi conoscere anche tutti voi, sia Vlog, ma sia anche Lorenzo Avanzi, che è in pratica l'arrangiatore, possiamo dire così, no? di tutta la tua musica. Assolutamente sì. Prima Lorenzo stava parlando Vlog del come si è avvicinato. Tu invece cosa ci dici di Vlog? Ma appunto dal primo momento in cui ci siamo sentiti la prima volta ho capito che ci poteva essere questa affinità a livello artistico. Infatti poi appunto quando è venuto in studio la prima volta ci siamo subito intesi su quello che poteva essere il percorso da intraprendere, lo stile da adottare, e quindi niente, siamo partiti e fondamentalmente non ci siamo più fermati, nel senso che ormai siamo quasi all'arrivo di questo, nel concludere questo album che conterrà tutti i pezzi, ognuno diverso dall'altro ma in ugual misura legati tra di loro. E niente, sono molto contento di come stanno uscendo le cose e spero che piacerà a tutti gli ascoltatori quando uscirà appunto in tutti i digital store, eccetera. Certo. Io volevo chiederti una cosa, Lorenzo, perché ascoltavo, ho cercato di abbinare, ascoltare un po' la vostra musica, la tua e quella di Vlog. Ad esempio sulla canzone La Maschera, ci sono queste sonorità elettroniche, però poi sono andato ad ascoltare un'altra bellissima canzone, aiutami che non mi ricordo il titolo, quella suonata col piano, L'Eclissi. Tutta un'altra impostazione. Qual è la tua sonorità? È sempre sull'elettronica o c'è un qualcosa, diciamo, che va anche di fuori? Allora, sono brani che sono stati scritti innanzitutto in periodi molto diversi, nel senso che sono nati proprio in momenti diversi. In realtà appunto io sono sempre stato abbastanza propenso, diciamo, all'uso dell'elettronica e tutto quanto all'interno delle mie canzoni, perché mi è sempre piaciuto questo tipo di sonorità. Diciamo che un brano come Eclissi forse era più, cioè nel senso, richiedeva più l'utilizzo ad esempio appunto di un piano e di strumenti più classici, proprio per il mood che ha questo pezzo, essendo comunque una ballata lenta. E nonostante questo, vabbè, comunque nel ritornello ci sono alcuni elementi di elettronica tra la batteria, dei synth che ci sono sotto e tutto quanto. Detto questo, appunto, io cerco sempre di fare l'arrangiamento dei miei pezzi e di chiunque in base soprattutto all'esigenza del pezzo stesso, più che appunto all'idea che ho in testa del mood generale. Poi ovvio, ogni cosa deve seguire un filo logico, nel senso che i pezzi non possono essere completamente diversi l'uno dall'altro senza avere nessun punto di contatto, per cui cerco sempre di inserire elementi che possano creare appunto questo percorso e che, per quanto possano renderli diversi e quindi non banali, di conseguenza non tutti uguali e ripetitivi, cerco comunque di lasciare dentro delle tracce che facciano capire che comunque si tratta sempre della stessa persona, certo, nonostante i brani siano diversi. Certo. Comunque l'indirizzo che è sempre questo, anche per Vlog, cercare di aiutarlo sempre su una base dell'elettronica. Comunque. Assolutamente, sì, ma possiamo, ci saranno anche pezzi più esatto, acustici, poi esatto, sentirete. Che anche ieri ne abbiamo parlato, glielo ho detto, che poi ci saranno anche pezzi che ovviamente magari rimarranno più sul classico, comunque. Sì, assolutamente. Saremo flessibili in quello che poi è. Giustamente, come ha detto Lorenzo, è il brano che dice un po' quello, esatto, che, quello è il brano che decide il vestito che deve avere. Poi ripeto, questa davvero, questo miracolo, questa sintonia è come ogni volta che c'è un pezzo particolare, io lo capisco ormai dagli occhi, dallo sguardo di Lorenzo in realtà anche dai messaggi ormai, e capisco subito se c'è quella scintilla. In effetti coglie proprio lo spirito, perché in Osmosi non era semplice portare l'ascoltatore nella notte, e quello è un brano che è notturno, è incredibile questa cosa, ma io, se tu provi ad ascoltare Osmosi è della verità, alle 5 del pomeriggio ti trasporta già, certo, nel notturno, certo. Questo è davvero, c'è tanta scienza dietro questa cosa. Certo. Lorenzo, io non voglio rubarti tantissimo tempo. No, figurati. Appunto, volevo chiederti una cosa, ma poi alla fin fine è proprio la tua anima musicale, perché ho visto che, a parte che ho scoperto un nuovo cantante della musica italiana, te l'ho fatti anche i complimenti perché sono grazie, vero. Grazie mille. Infatti ti ho anche scritto oggi, penso che l'hai visto, guarda che ti aspetto, perché... Sì, assolutamente. Hai una voce particolare, secondo me, che va, arriva subito dal primo momento. Avrei piacere grazie, di fare ascoltare. Mi fa piacere che ti sia parsa così. Certamente. E quindi c'è, cioè, la tua vera anima alla fin fine, cioè quella del piano, o è quella proprio dell'elettronica? Ma io, appunto, devo dire la verità, io sono un po' l'istrumentista nel corso della mia vita, sono nato un po' di tutto, dalla batteria, chitarra, piano, quindi in realtà... Appunto, non c'è una risposta definitiva a questa domanda, non lo so. In alcuni momenti può essere, appunto, più il piano, possono essere le canzoni piano voce o chitarra acustica e voce, in altri mi piace, appunto, anche mettere dentro degli spunti di cose blues, per dire, con la chitarra, altre volte solo elettronica pura, cioè... In realtà la cosa che mi piace di più è proprio quella di sperimentare senza darmi nessun tipo di limite, così da far uscire, appunto, un po' tutto quello che deve uscire perché la canzone possa venire al meglio possibile. Certo. Allora, io prima di rientrare un po' con Vlog, volevo dire anche che farò ascoltare una tua canzone che è proprio per... far capire le affinità musicali, chiamiamole. Ah, volentieri, così. Volentieri. E volevo appunto far ascoltare La Maschera. No, volevi dire qualcosa? No, assolutamente no. Quello che ha detto lui è esattissimo. Tra l'altro, io devo confermo la, diciamo, poliedricità di Lorenzo, sia come musicista ma anche come ascoltatore, che è un altro che abbiamo in comune. La classica domanda, io l'avevo detto anche l'altra volta in radio, alla quale non so rispondere, cioè: cosa ascolti, qual è il tuo genere? In realtà non esiste un genere o e questo penso che sia una cosa davvero che abbiamo in comune. Lui, cioè, una sera potrei addormentarmi con List, il giorno dopo con PFM, poi con Quintale, poi con, cioè, voglio dire, dipende da come, certo, da come. E questo vale anche quando si arrangia, e questo non è comune, questa cosa, perché di solito anche i musicisti hanno in effetti un indirizzo, cioè hanno, tra virgolette, sposato un po' una sorta di bandiera, ecco, in questo noi siamo molto liberi. Lorenzo, allora noi ti lasciamo libero. Va bene, è stato un piacere veramente. Ciao, grazie, Lori, grande. Per avermi chiamato. Ciao Gian, ci vediamo presto, sì. E niente, grazie ancora a tutti quanti. Grazie, ciao, grazie Lorenzo, a te, ciao, Lorenzo, ciao, ti aspettiamo. Ciao, ciao, ti aspettiamo. Ciao, ciao. Io volevo fare appunto una pausa musicale, volevo invece che fossi tu a proporre un qualcosina in acustico. Assolutamente, se volete, visto che sono qua, posso partire con Osmosi, che abbiamo sentito prima, quindi nella versione, diciamo, da radio, la versione arrangiata, la facciamo con la chitarra, quindi facciamo sentire un po' come nasce anche il pezzo, senza neanche troppi fronzoli. Non è mai conveniente, se le mani sudate è un campanello d'allarme, se ti trema la voce e c'era la luce a mezzanotte e le macchine suonavano le note nella strada di gomma c'è a fondo. Vorrei dimenticare ma non troppo, ci bevo su la saliva che sento nella bocca, non è solo la mia, per osmosi irreversibile sapeva tutto di te. Nella notte più buona di sempre mi ero perso da ore e faccio amicizia con le persone che non conosco bene. Ma quanto ci sto godendo, non mi importa di nulla, vado avanti da casa mia, senza fame né sonno, sbadiglio buongiorno, già, prendo su carta soldi, lo smart e le chiavi, via, tenere vuota la pancia mattina fa male e confondo la mia faccia con quella degli altri e così mi fa strano, strano, strano. Sconnetto parole sceme, prendo fiato, la saliva che sento nella bocca pesa il doppio di me, per osmosi irreversibile sapeva tutto di te. Nella notte più buona di sempre brucio un rosso, ci scalo, risento bisbigli che nella mattina confonderò con le guance endorfine. Per osmosi irreversibile sapeva tutto di te. Nell'istante il rumore si è fatto silenzio, lo smog trasparente. Nella limpida notte trafitta da luci mi ero perso nei le dei lampioni che con la mattina dimenticherò. Passi a vuoto e respiri, ma te no, ma te no, ma te no, ma te. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Ecco, poi andremo a recuperare comunque la canzone perché la voglio far ascoltare, quella di Lorenzo. Di Lorenzo, sì, maschera, sì, sì, sì. Che sensazione hai, suonare in acustico? Ah, mi piace, mi verrebbe voglia in realtà di, cioè, adesso mi sto sbloccando, quindi mi verrebbe voglia di suonarne anche altre. Però come ti dicevo prima, insomma, quelle dell'album non le potrei anticipare, quindi faremo magari, tu me lo concederai, Padrone della Sabbia. Certamente sì. Però no, a me piace suonare in acustico. Tra l'altro io sono molto contento e ti devo ringraziare di avere sottolineato le qualità anche canore di Lorenzo, perché nessuno sa ancora quanto faremo bene sul palco, nel senso, noi lo sappiamo perché al momento si sono visti i brani, ma io posso garantire, perché l'ho visto dal vivo, lui sa come sono io, unite le voci si impastano davvero bene. Infatti noi contiamo comunque di fare anche degli show live, poi molto molto naturali, molto reali, e siamo molto contenti di questo e so che stupiremo dal vivo. Quindi ecco, questa per me è una novità. Sì. Però, questa non ne abbiamo mai parlato. No, è vero, t'ho fregato. Perché poi alla fine, appunto, volevo chiederti, allora anticipo, perché volevo chiederti, suonerai dal vivo? Sì, dopo l'album sì. Quindi anticipiamo. Dopo l'album sicuramente faremo delle date. Io sono certo che Lorenzo sarà con me, saremo insieme, quindi è molto importante perché comunque nei brani, se tu noti, comunque ci sono sempre due voci. Poi noi abbiamo tra l'altro sperimentato e provato molto, quindi c'è anche l'impasto delle due voci, devo dire, notevole. E quindi, e poi anche proprio per un discorso anche di coerenza sul progetto, ci sarà, però è presto ancora, certo, per dire tour, dove, cosa. Sì, quindi non ci sono date. Non ancora, perché effettivamente non c'è la data dell'album. Quello, ci sono prima degli step che saranno da seguire, anche perché lo sai meglio di me, bene o male, ci sono poi succedono tante cose nel mondo musicale in Italia, gennaio, febbraio, quindi. Però devo dirti che le prove che abbiamo fatto sono belle, insomma, certo, funzionano bene. E allora, già che ci siamo, parliamo anche un po'. Abbiamo parlato della trilogia, però visto che c'è in programma, facciamo non un accenno di musica, intanto facciamo un accenno di questo album, cosa sarà? Sì, allora, in questo album, è il titolo, non posso dirlo, ma dirà che cosa questo album. Questo album vorrà proprio aprire questa finestra su di me, sui testi, sull'idea che ho io, su quello che voglio comunicare. Infatti proprio anche il mio nome d'arte, vlog, è un po' questo, quindi una webcam sulla mia vita. E l'album sarà questo. In fin di conti ci sarà un piccolo inganno, nel senso che è chiaro che un po' la melodia, un po' certi usi di certi suoni devono un po' essere un po' come, se vogliamo, ammiccanti, no? Per portare poi effettivamente all'interno di quelle che sono tematiche in cui credo molto e che ci tengo a comunicare, fondamentalmente, quello assolutamente. Certo. E previsione comunque metà quindi dell'anno prossimo? Allora no, assolutamente prima. Quindi allora il terzo brano, la chiusura della trilogia, io credo massimo un mese e mezzo e pubblichiamo. Quindi il brano che tu hai sentito prima. Sì. Non dire che non è vero. Fondamentalmente uscirà sicuramente, diciamo, massimo primi di dicembre. E quindi la trilogia a quel punto è chiusa. Dopodiché l'album, io penso non più tardi di marzo, sarà tutto pubblicato, tutto editato. Quindi nei prossimi 4 mesi succederà tutto, assolutamente. Certo. E senti, Vlog, allora io volevo chiederti una cosa. Tu sei legato ad artisti come Franco Battiato, De Gregori, Fabrizio De André, sì. Lauzi. Lauzi mi piace ricordarlo perché lo trovo straordinario. Conte, a proposito poi dei Progressive agli Area. Ma volevo chiederti, perché noi abbiamo bisogno di, il programma si chiama proprio per questo, Io mi racconto, perché abbiamo bisogno di conoscere chi viene qui. Quali sono le tue affinità con questi cantanti? Sì, allora intanto giustamente abbiamo parlato fuori onda, quindi è giusto mettere anche Battisti. Mi piace ricordare l'ultimo Battisti forse meno ascoltato, secondo me straordinario, qualcosa di davvero di... Ma diciamolo anche prima cosa hai detto di Battisti. Sì, di altissimo. Io di Battisti penso che quel lavoro sia stato poco divulgato, poi tra l'altro è recente la questione, io non l'ho capita neanche bene, l'ho seguita poco, dei brani che sono usciti su Spotify, poi sono di nuovo andati, sì. Insomma c'è tutta una questione di... L'ultimo Battisti per me è straordinario, inizia l'uso dell'elettronica, mantiene un certo tipo di melodia e quello è un progetto, è come se questo grandissimo genio artistico abbia un po' indicato una strada che non è stato l'unico. Da un lato mi piace l'idea di, con tutta l'umiltà possibile, di in qualche modo avvicinarmi a quel tipo di traccia, no? Questo la melodia serve a conquistare fondamentalmente, a entrare nel corpo, nella mente, nel cuore delle persone. La melodia serve a quello. Diciamolo anche appunto che stiamo parlando del passaggio a suo tempo che ha fatto Lucio Battisti dalla musica un po' così con la sua chitarra, con i suoni tradizionali, al passaggio alla musica elettronica, che grosso modo quello che stai facendo, sì, anche sì. Tu lo stesso percorso. Assolutamente sì, non posso negarlo perché comunque da ragazzo, diciamo 24 anni fa, io suonavo punk, quindi stiamo parlando proprio di, cioè, sì. Tutto esattamente il contrario. Però effettivamente l'elettronica apre tantissime porte. Io invito tutti a ascoltare l'ultimo Battisti perché ha aperto delle porte sonore straordinarie. E poi lo stesso Battiato, voglio dire, lui ha sempre fatto uso di elettronica e non si può dire che non abbia dato pathos alle sue canzoni, quindi chiaro, ci vuole tanto lavoro, infatti, e anche tanta voglia di approfondire, di andare dentro le cose, dentro la canzone, di capire le intenzioni, certo, di quella canzone. Infatti, tornando al discorso di Lorenzo, in quello proprio noi passiamo ore a volte insieme a... per un singolo secondo, per un singolo suono, a veramente... E questo è molto importante, perché differentemente è vero anche che l'elettronica può anche dare delle scorciatoie. Su questo è inutile negarlo, perché è così semplice mettere una base che va, due suoni, quindi effettivamente... Certo. Io direi anche di fare una cosa, vorrei recuperare quel brano prima che abbiamo perso le maschere di Lorenzo... E poi ritornare un po' su quello che è sul discorso adesso che abbiamo parlato, sì. delle affinità, perché è un discorso interessante. Cammino tra la gente che conosco e non saluto, e più vi guardo e più vi manderei tutti quanti a... Il mondo cade a pezzi e tutti noi ci siamo sotto, il sole si è oscurato, sta piovendo di brutto. Ognuno indossa la sua maschera, tira su le tapparelle, come ogni giorno si prepara e mette all'asta la sua pelle. Il tempo sangue, questo è ciò che va versato. Qui chi vince vive, chi perde viene divorato. Ormai niente tornerà mai più lo stesso. Perfino le nuvole sì, scretoleranno come gesso. E mentre vomito ciò che resta del mio cuore, chi perde viene divorato. E mi son detto spesso di andar via, che del resto del mondo non avrò mai nostalgia. E muri di anime senza perdono sfonderanno il mio cuore fin troppo astratto, perché ancora tuttora io non sono. Se mi ascolto sul serio son troppo distratto. Ognuno toglie la sua maschera, tira giù le tapparelle, come ogni sera si prepara e mette addosso la sua pelle. Non c'è più tempo, questo giorno ormai è andato. Qui chi ha vinto vive, mentre io vengo divorato. Allora, io volevo ritornare un po' su quello che, è che abbiamo introdotto sulle affinità. Allora, abbiamo parlato delle affinità su cantanti del passato, di giganti della musica, tra l'altro, giganti della musica. Io volevo che tu mi dicessi invece se trovi qualche affinità nei cantanti di oggi. Ecco, allora, su questo tema devo dirti la verità. Allora, affinità nel senso quali cantanti mi piacciono, ce ne sono tanti. E in ambito internazionale gli M83, ma potrei dirne tantissimi. Per me Nostrani, Cosmo, secondo me sta facendo un ottimo lavoro, voglio dire, ma ce ne sono tanti. Sono sincero, il nostro lavoro, parlo di nostro sempre in riferimento anche a Lorenzo, non è emulativo, quindi è davvero estremamente spontaneo. Quando tu prima gli hai fatto una domanda mi veniva voglia di intervenire nel dire davvero è spontanea, anche l'arrangiamento è molto spontaneo, cioè io ho lavorato con tanti musicisti e il 99% lavorano su un binario. Noi, fondamentalmente, la mia canzone nasce in maniera magica sulla chitarra, non so neanche io esattamente da dove arriva sta cosa, che ce l'ho sempre avuta, ma anche lui nel momento in cui arrangia io noto che ha quella stessa fiammella nella scelta proprio del suono, magari nell'andare a proporre qualcosa, quindi non siamo emulativi, ecco. Quindi apprezzo tantissimi i contemporanei, ma devo dire la verità, pura ispirazione non mi sento di dire niente, perché effettivamente Baustelle sono straordinari, ci sono nell'indie artisti che stanno facendo Car Brave, mi piacciono moltissimo, però ecco, sento che sono molto nostre le nostre cose, che non avranno timbri che... Certo. Ricollegabili. Ma come entra la musica di l'arrangiamento di Lorenzo nel tuo modo di concepire la musica, il tuo testo? Dovresti venire una volta in studio, perché è un momento molto bello, lo devo dire. Non abbiamo un vero e proprio metodo, fondamentalmente io gli faccio sentire la canzone finita sulla chitarra e gli dico in linea generale, secondo me, quali potrebbero essere i suoni. Poi ovviamente se ne parla un pochettino su WhatsApp e poi ci si trova in studio e lì inizia una vera e propria sperimentazione, quindi strumenti alla mano, sintetizzatore, si iniziano a campionare, si inizia a vedere quel determinato suono, quella batteria. Posso dirti che ieri siamo stati su dei cori quasi 2 ore e lì è proprio veramente sperimentazione, passione. Mi fa un po' sorridere quando dicono: ah, ma sei stato tutto il giorno. Ma è una cosa meravigliosa, perché in realtà fai musica, quindi certo, non c'è niente di più bello. Certo. Però davvero è tutto molto spontaneo, non certo, programmato. Penso che sia come noi che veniamo qui in radio, magari ti fai il programma di un'ora, ma vorresti stare poi a 10 ore. 10 ore. Esatto. Sì, sì, è oppure, così. Oppure nel palco, chi è va a fare un concerto a un certo punto non vorrebbe mai scendere. È vero. Scatta quelle cose, quella magia che parlavamo anche prima, no? Quando ti accorgi che le cose vanno bene, ti carichi di positività e vorresti andare avanti. Ma oggettivamente io prima ti ho fatto sentire un po' dei brani così, degli accenni, anche se erano allo smartphone, non masterizzati, non mixati, certo, quindi teoricamente inascoltabili, però senti che effettivamente, ma non lo dico perché sono i miei, ma da ascoltatore ci stiamo rendendo conto che stiamo facendo qualcosa, cioè ce ne stiamo proprio rendendo conto. Io sono molto contento di questo, infatti. Però non c'è un grande calcolo, effettivamente detto, c'è un'idea chiara del progetto che è condiviso, e questo è fondamentale, perché comunque deve essere condiviso. Però poi alla fine c'è tanta spontaneità nel momento in cui si va a realizzare questa cosa, c'è tanta tanta spontaneità. Allora Pulok, io direi di passare di nuovo in acustico. Ah, vedo che la tua passione ti diverte, sì, tanto, e noi siamo felicissimi di questo. Cosa proponi? Ma a questo punto faccio Padroni della sabbia, che era stata la prima. Non so se io l'avevo segnata qui, però ti ho lasciato scelta libera. Un fuoricampo da una strada piena, frecce in coda da un'alterazione. È quella storia dove ridi sempre, è la mia preferita. Era un'estate un po' scordata, per tenere tutti i giorni la mia mente qua, fuori rotta, stabilmente, fuori sempre più occupata. Ma in poco tempo io e te abbiamo fatto tutto quanto gli altri fanno in 100 primavere, e noi in poche sere. A sudarci negli occhi che guardano senza bruciare, e mai restiamo brilli a oltranza. Noi la sabbia è cosa nostra, la sera all'ape il vento è storto come me, e dai restiamo fuori stanza. Noi la sabbia è cosa nostra, la sera mi sento un drone d'agosto. Rieccoci nuovamente in diretta. Nel frattempo mando un po' di base di osmosi. Allora, dopo ci ha raggiunto anche Alberto, che lo invito a mettere le cuffie. Anche sì, perché ci tengo, lo sai, te l'avevo detto, e quindi ci tengo che ti metti un attimo le cuffie, e poi spiegherò anche perché ci tengo che Alberto sia qui con me questa sera. Allora, Padroni della sabbia, parliamo un po' di questa canzone. Sì, era un brano che doveva essere appunto un brano estivo, quindi l'idea era quella. Mi sono immaginato un incontro che però non fosse avvenuto effettivamente al mare, ma quindi, come ti dicevo prima, un incontro urbano, notturno, magari in una città un po' deserta, vuota dalla gente che comunque è andata al mare, però siccome ti sei trovato con la persona giusta, in realtà è stata una gran serata, e quindi in realtà l'idea era dire: è estate, se si sta con la persona con cui si sta bene, certo, estate un po' ovunque, anche se non c'è il mare, la sabbia fondamentalmente. Certo, certo. Volevo chiederti una cosa, Vlog, tornando un po' sempre ai cantanti del passato, perché poi magari ti vengono in mente un po' tante cose, no? Parliamo di, appunto, di, sempre di cantanti di anni 70, eccetera. Però ce ne sono ancora che brillano tra anche oggi. Io parlo di, appunto, Battisti, che mi ero segnato, che ne abbiamo parlato, Fatalità prima, indimenticabile sicuramente, Celentano, Mina. Ma ho scoperto, con mia sorpresa, che tanti giovani conoscono Mia Martini e Rino Gaetano. Secondo te come mai ancora questa... Ma allora, Rino Gaetano, devo dire la verità, io penso che tanto anche la cinematografia, probabilmente, nel senso che noto che tanti di questi brani vengono riproposti, meno male, perché vabbè, certo. Tra l'altro è la cosa incredibile che, non so se molti lo sanno, ma i brani di Rino Gaetano sono quasi tutti live, cioè non sono da studio, neanche quelli, sì, che sentiamo su Spotify, quindi uno dice ma com'è possibile, cioè era gente che aveva veramente la voce, la dote. Ce ne sono anche tantissimi, tipo, piace ricordare, Califano gli metteva in mano un microfono, ci sono dei duetti tra lui e la Vanoni, seduti così sulla sedia con un microfonetto, insomma, certo. Che tra l'altro, non so se l'avevi sentito, poco tempo fa la sorella ha ripescato per caso un brano fatto in studio, che poi non so chi, un cantante, un amico, l'ha ripresa e la, in pratica l'ha riarrangiata, che è molto bella. Andrò a ripescarla e caso me la propongo. Ok, sì, perché sono poi brani straordinari. Torno a dire, a me piaceva molto comunque quel modo di scrivere, non voler ingannare l'ascoltatore, comunicare effettivamente con spontaneità uno stato d'animo, cercare anche di andare un po' al di là dei cliché, delle mode, dei trend. E una volta l'arte bene o male era questa, quindi... magari c'erano anche artisti con doti canore non con grandi estensioni, eccetera. Posso dirlo, De André, però voglio dire, stiamo parlando probabilmente di chi ha fatto scuola anche proprio nella metrica, però c'era questo. Mi piace l'idea che oggi si possa ritornare ad ascoltare questi artisti, chissà, magari, e in generale che si ritorni anche un po' a fare musica spontanea. Ecco, io su questo è una cosa che ci credo molto, sul fatto. Più di una volta tu mi hai fatto questa domanda e ci tengo a risottolineare, cioè proprio della spontaneità, no? Del non calcolo. Certo, perché a calcolare, certo, possiamo anche noi qua adesso ci mettiamo a calcolare, e si fa un brano calcolato. Certo. Non è impossibile, anzi, forse è la cosa più facile. Però in quel caso lì forse nel calcolo c'è la voglia di assomigliare, di essere, di diventare, certo, qualcuno o qualcosa, mentre nell'artista c'è... l'inconsapevolezza, anche se vogliamo, di che non sai neanche cosa stai facendo esattamente. Io a volte davvero, te l'avevo detto al telefono, io ero piccolo, mi alzavo, dicevo, sì, a mia nonna, ma dove l'ho sentita, sì, sta canzone? Sì. Lei mi dice alla radio, ma in realtà alla radio non c'era stata, cioè davvero non so da dove arrivo, non ne ho idea, però, certo, è la bellezza della cosa. Certo. E sempre a proposito degli anni 60 e 70, in quegli anni c'era un grande fermento musicale, no? C'era, sì, la ricerca di sonorità, di cose nuove, sì, c'era la musica internazionale che stava esplodendo, e anche in Italia abbiamo iniziato a importare la musica, e c'era uno spazio enorme per questi musicisti. E oggi è come ieri o è una cosa completamente diversa? Domanda retorica. No, è una cosa completamente diversa. Beh, intanto bisogna comunque ringraziare, se siamo qua davanti ai microfoni, professionisti, artisti come te, che danno lo spazio a chi vuole fare musica, e quindi meno male che ci siete. Però è vero anche che sono cambiati tantissimi tempi. Questo è il tempo dei talent, torno a dire, dell'emulazione, delle voci che si assomigliano, dei testi che si assomigliano, degli arrangiamenti che si assomigliano. Di talent che poi, tra l'altro, che piaccia o no, purtroppo però è una realtà, è una realtà, è un modo per emergere anche quello. Assolutamente, no, ma infatti non era una critica mia, però alla fine sono proprio cambiati i tempi, cioè quello di sicuro, non sono più quelli, sono diversi. Certo, poi ritorneremo un po' sui giovani. Io avevo l'esigenza di fare partire uno spot, dopo dirò il perché. Rockwave con Alberto Prisco, tutti i mercoledì dalle ore 19 alle 20:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ecco, questo è uno spot del carissimo amico e collega Alberto Prisco, che è qui con noi questa sera. Buonasera a tutti, ecco, ciao. Allora, ciao Alberto. Ciao Gid. E ciao, ben ciao, ciao, ciao, ciao. Ci siamo presentati prima, ma è giusto. Eh no, beh, non in onda, non in onda, esatto. E benvenuto nella mia, o meglio sarebbe dire nostra. Beh, ormai è nostra, sì, dai. Ecco. Da oggi anche, cioè anche tu entri nella famiglia. Io è già un mese, e con Gilles abbiamo una quarantina d'anni all'incirca di collaborazioni alle spalle. E io ho debuttato qui su Radio Cooperativa un mese fa e dopo, parlando con Gilles, abbiamo pensato di allargare la famiglia di Rockwave, quindi non solamente la mia trasmissione, ma anche la trasmissione Io mi racconto, con ospiti dal vivo, interviste, eccetera eccetera. Ecco, diciamo allora, qual è il tuo programma, Alberto? Beh, il mio programma viene onda tutti i mercoledì sera, è una classifica rock, principalmente sulla musica straniera, però non al 100%, quindi c'è anche spazio, perché no, anche per vlog, magari quando uscirà il disco, assolutamente siamo aperti. Principalmente però siamo attenti alla musica, diciamo, emergente sempre, però certo, di stampo internazionale, anche se però in realtà ci sono anche molti artisti italiani che fanno il brano, diciamo così, anche in italiano o in inglese, che entrano nella classifica. Quindi sono 20 canzoni, 20 brani che noi proponiamo tutte le settimane, e ci sono degli ingressi, delle uscite ogni settimana, quindi all'incirca 20 canzoni che cambiano in 4-5 ogni settimana. Certo, l'ha detto prima, abbiamo sentito nello spot, nel jingle, però va in onda ogni mercoledì. Mercoledì dalle 19 alle 20:30. Ecco, che vi consiglio, perché cioè, è buona musica. Troppo, poco da fare. Troppo buono, troppo gentile. Però io non vorrei togliere spazio. Io invece ti ascolto. Ah, bene, io grazie. Posso dire, in ambito internazionale, un gruppo rock che a me piace tantissimo sono i King of Sleon. Ah beh, molto ecco, bravi. Lui sicuramente li conosce. Sì, sì. Anche i Baustelle, comunque. Li ho visti dal vivo 2 mesi fa qui a Padova. Caspita, tanta roba. Grandissimo concerto, tra l'altro. Ma lì siamo, ecco, ad esempio, è una capacità roba di scrittura. Ormai gli ultimi due dischi sono Veronica, sì, un brano. Ma sono musiche richiave, che tra l'altro nasco su chitarra. Sì, sì, sì, ma sono molto semplici. Se sì, lo so, ma infatti quello è un anche quello, infatti prima l'avevo citato, perché è un modello ispirativo, secondo me. Certo. Stanno facendo scuola, e dispiace perché appunto magari si sentono poco nelle Superstation, però per me c'è tanta arte. Sì, è quella melodia, diciamo, vincente, cioè una melodia anche di culto, cioè nel senso che non è banale assolutamente, sì, sia per quanto riguarda i testi che per quanto riguarda le musiche, ma tu magari meglio di me. No, ma è verissimo quello che dici, mi piace questa cosa che hai detto della melodia di culto, nel senso che effettivamente la melodia è importante. Certo. E io questo è un aspetto che non voglio abbandonare nel progetto. Prima Gilles ha sentito un po' di brani nostri nuovi e sono melodici, cioè saranno molto melodici. E infatti nella mia trasmissione, sono tutte musiche internazionali, sono anche pezzi di gruppi famosi sempre nelle loro pubblicazioni attuali, però la melodia in ogni pezzo c'è. Cioè... Sì, tra l'altro una cosa strana, ad esempio anche nel rap, no? Sì. Se noi ascoltiamo il rap americano, è incredibile, ma c'è sempre una vena melodica. E a un certo punto è come se in Italia si fosse voluto un po' negare anche, no? Un po' sì, personalmente il trap italiano non mi piace. lui non va. No. Però ecco, per me invece, ne parlavamo prima, il rap è, cioè, già dagli inizi, non dico che sono un intenditore, però lo seguivo, no, perché quello è un degli anni musicale. 70-80 mi piace però molto. È un po' quello che stiamo dicendo, cioè nel senso, io sto dicendo questo, cioè che nel rap americano, faccio ad esempio, io parlo sempre di Tupac, cioè com'è nato il suo rap. Caspita, Der Mama di Tupac, se possiamo metterlo sto pezzo qua, è un pezzo pazzesco, è rap soul, eppure è rap. Stranamente a un certo punto il rap, non quello iniziale italiano, a un certo punto, io si può anche dire, forse fine degli anni 2000, cioè fine degli anni 2000, primi anni 2000, 2001, 2002, quegli anni lì, noi abbiamo iniziato proprio a rinnegare la melodia, nel rap, ma anche negli altri generi. Forse le prime cose italiane, tipo Frankie Energy, non era esatto, niente male. No, quello, no, assolutamente. Quello era assolutamente di livello. Assolutamente. Diciamo, è andato un po' scemando, secondo me, secondo il mio gusto personale, naturalmente, con il passare degli anni, diciamo, abbiamo un po' abbassato il livello, ma questo è il mio gusto personale, dopo... Io vorrei interrompervi un attimino per ritornare sulla musica, e poi tu non te ne vai, resti qua con io me. Io resto qua, però diamo lo spazio. Certo, certo. Infatti, comunque questo è vlog, quello che ti dicevo prima, no? La mia trasmissione è fatta così. Magari anche se ho un cantante emergente che ha solo un inedito, magari farlo venire qui con un ospite e farlo parlare, come stai facendo tu con Alberto, parlare di musica, È un onore per me, è un piacere, vi ringrazio. L'onore mio, tutto mio, assolutamente. Ecco, certo, se qualcuno eventualmente vuol parlare anche con Vlog, io gli apro anche la linea, può chiamare, perché no, fargli qualche domanda, più che volentieri. Ecco, allora io passerei ancora la musica, tu hai già pronto qualcosa da... Ma in realtà gli altri sono inediti, sai che io posso al massimo farti un accenno di 10 secondi, o l'inizio di un brano nuovo che potrebbe essere la chiusura della trilogia, ma posso proprio 10 secondi, eh? Vai. Sai dirmi dove sta la tua stazione in fondo, un orizzonte sfocato, c'è lì il tramonto e già bevuto un nodo in gola, si è affogato in una parola, sotto quel cielo che scalda le ossa ti fa da pullover, sulla pelle che brucia le nove, vai per cresciato, ristallo e piove, ma aspetti dove... Tornello sarà nell'album. Ecco, guardate che è comprensibile che non si possa fare ascoltare alla fin fine. Manca poco. Non siamo a Sanremo, per carità, no. Che non, però è giusto che sia così, quindi ti ringrazio. No, ma grazie a voi. Ecco, già di aver fatto questo. Allora, io volevo chiederti anche questo. Vorrei che tu mi parlassi, tu hai una, in pratica alle spalle un bel passato di musica, no? Quali sono state le esperienze più importanti da te, da quando hai iniziato un po' fino ad oggi? Ma allora, non riesco, ti dico la verità, a sottovalutarne qualcuna. Non posso negare che sono tutte esperienze, positive o negative, che mi hanno fatto capire. Quello che ti dicevo prima, ad esempio, sullo stare insieme agli altri artisti nel momento di creazione compositivo, che comunque avviene sempre. Nessun artista sarà mai solo. Battisti appunto era con Mogol, quindi tutti condividono qualcosa con qualcun altro nel momento in cui creano e fanno musica. E quello ti insegna anche a capire quando c'è la magia e quando non c'è la magia, perché quando non c'è, magari le prime volte non te ne rendi conto e vai avanti su certe strade, ma queste strade effettivamente non portano da nessuna parte e lo capisci però tardi. Poi ci sono anche esperienze formative, come quelle anche magari semplicemente di scrivere brani, testi o pezzi per generi che apparentemente tu reputavi lontano da te, per voci femminili, piuttosto che, appunto, tornando al discorso dei rap, magari per giovani rapper che volevano brani che esprimessero qualcosa relativamente a dinamiche molto molto giovanili, adolescenziali. Quindi io quando scrivo una canzone mi sento un po' un attore, nel senso mi immedesimo, mi piace questa cosa di immedesimarmi, te l'ho detto prima, senza giudicare. È un po' come Flaubert, no? Cioè io mi immedesimo nel personaggio, ma non dico se è giusto o se è sbagliato, semplicemente mi immedesimo. Quindi se tu tendenzialmente volessi farmi scrivere una canzone su un soggetto, io mi immedesimerei in quel soggetto e scriverei il testo e probabilmente emergerebbero anche le melodie relativamente a una storia e a quel soggetto lì. Quindi queste esperienze mi hanno formato tanto anche a capire un po' meglio come esprimere poi le mie intuizioni, perché venendo dal prog, ad esempio, uno dei problemi che c'era nei miei pezzi e che erano lunghi, avevano all'interno dinamiche metriche molto complesse. Ad esempio, tu sei amante del prog, vero Alberto? Eccomi qua. Progressive. Beh, no, non particolarmente comunque. Ah. Cioè mi piace, sì, però non particolarmente. Parlava di aria. Beh io... Li ho visti dal vivo anche gli aria. Caspita, no, gli aria, ma allora italiano, aria, Banco del Mutuo Soccorso, PFM, ma però a livello internazionale, dagli ultimi Unitopi australiani, piuttosto che Genesis, ancora con Peter Gabriel. Sì, Gento Giant, insomma... No? Però io questa cosa un po' me la portavo dietro, perché il prog, secondo me, quando io facevo prog, era come se tu avessi voglia di buttare fuori tutto, no? E quindi una canzone aveva magari quattro chiavi, sei melodie diverse, sei ritornelli che continuavano a cambiare, quindi la canzone cambia completamente. In effetti per un ascoltatore anche un po', fa anche un po' confusione, perché magari il jazz più o meno, la fusion continua su una strada, il prog se ne va. Cioè tu in un pezzo magari pezzi. Può durare 30 minuti, esatto, con sei canzoni dentro. Sì. E questo io era un difetto di scrittura che avevo, perché nelle mie canzoni infatti tante volte, però sono riuscito alla fine a trovare un compromesso, ecco, quindi sono riuscito a far stare anche canzoni in 2 minuti e 30, però devo dire che anche con Lorenzo tante volte io gli dico dai ma dammi una base tua eccetera, però lui dice no, mi hanno provato, ma perché si perderebbe quella complessità. Se tu hai notato prima le note, anche se la canzone è immediata, però sono tutte seste, sono tutte note strane, cioè nel modo di fare mi porto indietro un po' questo background che non ha proprio che vedere con la leggera, ecco. Volevo chiederti un'altra cosa a proposito dei giovani, visto che ci occupiamo anche tantissimo di giovani, di musica emergente, no? Ci sono tantissime difficoltà per questi ragazzi, sì, ad emergere. Parlavamo proprio prima che molte emittenti sono costrette a mettere quel tipo di musica perché imposta, ma non è una critica. Funziona, va, la gente ha voglia di ascoltare anche musica di successo, e quindi ci siamo anche noi, non dico noi solo come Radio Cooperativa, esistono per fortuna anche altre piccole realtà che danno spazio. Ma in mezzo a tutte queste difficoltà, questi giovani, cosa li spinge a continuare a provare a suonare? È la forza di dire voglio diventare famoso, o è proprio la voglia di, nonostante tutto, rimanere nella musica? Allora, quello che penso io, in sincerità, dico proprio il mio pensiero, come una mia canzone sperimentale, nudo e puro. Io penso che se questa cosa non ce l'hai spontanea, cioè se non ti esce in maniera naturalissima, voler diventare famoso... Allora, l'ambizione è una cosa bella, che tutti hanno diritto di seguire un sogno, per cui se il proprio sogno è quello di essere su un palco con 80.000 persone che ti guardano, perché no? Però dal mio punto di vista, non lo so, forse magari è un mio modo un po' bohemien di vedere la cosa, però non lo vedo molto artistico questo, nel senso che o questa cosa tu ce l'hai davvero e allora dici voglio farvela vedere, ma se tu invece non hai questa cosa ma la costruisci effettivamente perché... come dire, proietti te stesso sull'immagine della rockstar, perché vuoi essere rockstar, perché ti piace proprio l'immagine della rockstar, ecco, io su questa cosa ho un po' una difficoltà. Tante volte mi è capitato di avere collaborazioni con artisti che mi rendevo conto fossero molto rockstar, poi però magari non riuscivo a entrare nel loro intimo, no? E questo è una cosa per cui ti dico io, se uno ce l'ha però effettivamente dentro... Gruppi giovani, ma pensiamo al caso degli Stato Sociale, cioè sì, sono stati famosi con Sanremo, ma in realtà io li ho già sentiti anche suonare dal vivo. Voglio dire, io li ho visti 5 anni fa. Bravo, esatto. Non conosciamo nessuno. Esatto, anch'io Bergamo, dicevo, caspita, sono bravi. E poi anche loro, giusto mix tra elettronica, però, caspita, certo, se non andavano a Sanremo. A proposito di elettronica, mi fai venire in mente di quando appunto hai visto gli Stato Sociale, che non erano nessuno. Io ho avuto modo, ragazzino, di vedere il primo Battiato, era in pratica su un piccolo campetto a fianco a casa nostra, e lui faceva la musica elettronica, usava l'elettronica con passione eccetera, però eravamo 10-15 persone, alla fine saremmo rimasti in 3-4 perché appunto era un po' difficile per quel periodo, invece poi è diventato... Ecco, su Battiato dal vivo posso dire un aneddoto. Io l'ho visto dal vivo proprio più o meno in quel periodo là, sempre qui a Padova, era in Prato della Valle, c'era un po' più gente, tipo 300-400 persone. Mi ricordo che alla fine del concerto disse: se pensate che questa sia musica sperimentale, vi state sbagliando perché l'ho già sperimentata io. Bellissima, era un grande. Era i tempi di Fetus e Pollution, i primi dischi. Cioè, pensa a te. Aspetta, beh, è straordinario. Questo, ad esempio, è un caso eclatante di uso sapiente dell'elettronica. Mi è piaciuto prima. Sono rimasto molto colpito quando ho fatto sentire un brano dei nostri nuovi a Gilles, che mi ha detto ma davvero questa è elettronica? Cioè, ma sei sicuro che questa non è una batteria? No, non è possibile che non l'avete suonata voi. Cioè l'elettronica in realtà, se è sapiente, cioè nel senso se è studiata, se ti apre tantissime strade. Era davvero proprio un suono proprio pulito. Allora, abbiamo ancora circa poco più di 10 minuti. Se a te non dispiace, io vorrei a questo punto qua fare ascoltare Padroni della Sabbia, come sono, e solo proprio contento. Con il suo arrangiamento elettronico. Perfetto. Un fuori campo da una strada piena di frecce in coda da un'alterazione, è quella storia dove ridi sempre, la mia preferita. Sì. andato da Milano. Era un'estate un po' scordata per tenere tutti i giorni la mia mente qua fuori rotta stabilmente, fuori sempre più occupata. Ma in poco tempo io e te abbiamo fatto tutto quanto gli altri fanno in 100 primavere e noi poche sere, a sudarci negli occhi che guardano senza bruciare. Mai restiamo brilli oltranza noi, la sabbia è casa nostra, la sera alla pervenza. Nei cassetti chiusi pieni di cose tue ti porto via dai manichini spoglie posteggi vuoti restiamo brilli a oltranza noi la sabbia è casa nostra la sera alla per vento è storto non glielo dire mai la notte è calma d'urgenza. Radio Cooperativa ti tiene compagnia 24 ore su 24 con trasmissioni d'attualità, di cultura e di impegno sociale. Questa sera a Rock Wave Live, Vlog e la sua musica. Allora, purtroppo siamo verso la fine, sono gli ultimi minuti. Vlog, allora raccontaci un po' di questa serata intanto. Beh, allora intanto grazie di avermi ospitato, davvero grazie a quelli come voi che danno spazio a quelli come me. È stata una serata bellissima, sono molto contento di essere stato qua con voi. Spero di non essere stato magari troppo prolisso, insomma, però... No, anche ecco. Perché hai visto che abbiamo fatto ascoltare anche tanta musica. E poi la trasmissione si chiama Io mi racconto, quindi... Ok, allora cioè, sono legittimato, grazie. Parlavamo prima della nostra scelta riguardo a questo tipo di programma. Magari qualche ascoltatore in meno, però persone che amano ascoltare questi artisti che non passano ogni giorno per radio. Tra l'altro... Volevo dirti, Vlog, che le tue canzoni, soprattutto Osmosi, io creerò uno spazio che mi è stato dato più che volentieri da Radio Cooperativa, che ringrazio di aver accettato il nostro progetto, quello prima di Alberto e poi successivamente il mio. Anche loro hanno fatto questa scelta coraggiosa e quindi mi daranno anche uno spazio per mettere della musica nazionale, musica italiana di artisti affermati. però con al suo interno artisti che passano qui in radio, quindi andrà la tua musica andrà in rotazione. Che bello, grazie mille, non lo sapevo, una sorpresa, sì, bello. Sì. C'è, prima di chiudere, c'è una persona che magari legato alla musica vuoi ringraziare in particolar modo? Ma io ringrazio le persone che mi sono vicine, che mi sono state vicine in questo progetto, gli amici, i sostenitori, tutti. Ringrazio Lorenzo, ringrazio in realtà anche l'ispirazione che effettivamente non mi abbandona ed è ormai effettivamente un qualcosa di a sé stante, no? Cioè una persona quasi, per cui ecco, ringrazio soprattutto quella, perché effettivamente prescinde da me. Allora, abbiamo detto prima che ancora date live non ce ne sono, però diamo delle indicazioni dove possono trovare la tua musica. Perfetto, allora sono super social, quindi Instagram Vlog Music, su Facebook Vlog, YouTube Vlog Music, e lì ci sono tutti gli aggiornamenti, quindi come c'è nel mio ultimo post, ho detto entro fine anno, diciamo primi di dicembre uscirà la chiusura della trilogia e poi a seguire entro diciamo marzo definitivamente l'album e poi tutte le date del live. Allora, permetti che anch'io saluto delle persone. Andrea Rinaldi dell'ufficio stampa Chiasso, che appunto mi ha permesso di collegarmi con te e poi poter fare la nostra chiacchierata e poterti invitare qui. Grazie Andrea, sei stato gentilissimo. Grazie ad Alberto Prisco. Grazie a Gigi, grazie a Luca. No, grazie a te, grazie a te. Mercoledì prossimo ore 19:20:30 e così lo ribadiamo. Ecco, e ringrazio te alla fine. No, grazie a te, Gilles, davvero è stato bellissimo. È stato un grandissimo piacere, quindi logico che ti aspetto qui per presentare il assolutamente, il guarda, prossimo ci sono, album. Ci sono. Ecco, sai che ci teniamo. Oltretutto sei stato il nostro, mio primo ospite e quindi storico. Questo non posso dimenticarti. Allora io vorrei chiudere con Osmosi, se te dici. Ok, l'abbiamo aperto e chiudiamo con Osmosi. Mi fa molto piacere. Vuoi salutare te? Ma io ringrazio di nuovo voi e saluto tutti gli ascoltatori. Un abbraccio a tutti e vi aspetto presto con le nuove pezzi. Per farvi sentire un po' del mio progetto, della mia musica, di me. Grazie a tutti, grazie a Radio Cooperativa. Non è mai come niente, se le mani sudate, è un campanello d'allarme, se trema la voce. C'era la luce mezzanotte e le macchine suonavano le note nella strada di gomma c'è fondo. Vorrei dimenticare ma non troppo, ci bevo su la saliva che sento nella bocca, non è solo la mia. Per osmosi irreversibile, sapeva tutto. Endorfine. Per osmosi irreversibile. You're a bad.